America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Qualche tempo fa feci un'intervista, una chiacchierata con Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera, che lasciava Washington per rientrare in Italia. È arrivato il momento di salutare un altro collega, Francesco Semprini, corrispondente della Stampa qua a New York, anche lui sul piede di partenza. Devo dire, con Francesco c'è un rapporto particolare perché abbiamo lavorato insieme per molti anni, ma dopo tutti questi anni di America vorrei cominciare a chiedergli, Francesco, che sensazione hai a lasciare New York e a rientrare in Italia? Per me è un ritorno dopo 10 anni di esperienza, quindi un periodo importante della mia vita, è un periodo importante non solo dal punto di vista personale ma professionale, perché ho iniziato a fare il giornalista qui a New York grazie appunto a Mario, che mi ha preso a lavorare con lui. Ho avuto il privilegio e l'onore di lavorare insieme a grandi professionisti. La mia esperienza professionale è limitata agli Stati Uniti e quindi ritornare in Italia per me è un po' ripartire da zero, cioè una nuova sfida. Sai perché te lo chiedo, Francesco? Perché noi in questi ultimi tempi ci stiamo occupando di un camionista, il signor Facchinetti, che invece dall'Italia vuole venire in America, vorrebbe venire a fare il camionista qua. E devo dire che dopo la trasmissione che abbiamo fatto con lui abbiamo ricevuto una gran quantità di lettere, di messaggi, insomma di gente che non è molto felice di quello che sta succedendo, un po' della confusione generalizzata che c'è nel nostro paese. Ecco, tu questa cosa la senti? Hai preoccupazione di un rientro in Italia dopo un'esperienza americana che possa essere complicato, oppure sai che ti adatterai a qualunque situazione? Quello che dici tu è vero, nel senso che la percezione che si ha dell'Italia qui dagli Stati Uniti è di un paese in cui ci sono un po' di problemi, c'è un po' di disorientamento, in cui ci sono delle difficoltà oggettive, ma ripeto, ritengo che forte del patrimonio che ho accumulato qui, che ho messo da parte, forte delle cose che ho imparato e dell'esperienza umana soprattutto, potrò sicuramente dare il mio contributo all'Italia. Ecco, una delle cose che ha fatto Francesco Semprini quando lavorava qui con noi, io devo spiegare un po' ai nostri ascoltatori che da America 24 noi facciamo anche lavoro d'agenzia, facciamo un sito come sapete, ma serviamo alcune agenzie di stampa italiana. Ebbene, una volta Francesco fu inviato a Washington per cercare di penetrare l'impenetrabile base aerea, l'Air Force Base di Andrews, dove ci sono gli aerei presidenziali americani. Ebbene, in quella base era arrivato Berlusconi e noi non avevamo avuto l'invito come agenzia più piccola per andare a seguire questo incontro stampa che ci sarebbe stato col presidente del Consiglio, mi pare che fosse il 2004, mentre l'ANSA l'aveva avuta. E dunque, Francesco, che è successo? Raccontaci questa storia. Riuscì a penetrare nella base di Andrews ben vestito a bordo di una limousine nera, e anche grazie a un visto che avevo sul mio passaporto per una rivista con cui collaboravo, una rivista della difesa, e dissi che dovevo raggiungere urgentemente la delegazione italiana. E quindi loro ti hanno preso per un diplomatico, no? Perché sì, tu sei arrivato con questa limousine, con un visto, tutto insomma con molta urgenza. Assolutamente sì, e mi hanno fatto passare insieme agli altri delegati. L'idea che un po' ci ha reso possibile fare un servizio importante e veloce come deve essere quello di un'agenzia era quello di lasciare i telefoni accesi. Io avevo due cellulari collegati con la redazione newyorkese e in tempo reale quello che diceva il premier veniva abbattuto e mandato in rete, e abbiamo dato 20 minuti alla concorrenza. Ecco, poi tu sei passato alla stampa, insomma hai avuto una carriera brillantissima e sei riuscito ad essere uno dei pochi giornalisti italiani che è stato embedded in Afghanistan, cioè sei andato al fronte fra gli americani. Ecco, raccontaci di questa esperienza di guerra sul fronte. È stata un'esperienza cercata, sono riuscito ad essere inquadrato, embedded sostanzialmente significa essere inquadrato in una unità militare, in particolare la Mountain Division, e in più in una zona abbastanza a rischio, cioè Kandahar, considerato un po' la roccaforte Taliban, il regno del Mullah Omar. Come si arriva a essere embedded? Raccontiamo ai nostri ascoltatori. Cioè tu come giornalista chiedi di andare, come funziona? Si fa una domanda al comando centrale qui negli Stati Uniti, il quale in base alle disponibilità che ci sono ti mette in lista per essere inviato presso una unità piuttosto che un'altra. Ecco, io volevo andare con la fanteria perché erano quelli che erano nelle zone, diciamo così, più rischiose, dove si combatteva di più. Io sono andato fino a Dubai per conto mio e poi lì mi sono imbarcato su un cargo militare e sono arrivato nella base di Kandahar. C'è un periodo iniziale di addestramento di un paio di giorni nel quale vengono insegnate un po' le linee guida, ovvero le regole da rispettare quando si è con i soldati e le procedure di emergenza qualora si sia sotto attacco. E ti sei trovato sotto attacco? Sì, mi sono trovato più volte sotto attacco. Ecco, e hai vissuto situazioni tragiche in queste tue missioni? C'è stato un attentato con i famosi YED, cioè gli ordigni rudimentali che i talebani pongono sul ciglio della strada, durante il quale sono morti tre soldati che erano nella mia stessa caserma a Pashmul. Da una parte quello che mi ha colpito è stato il generale clima di blackout che hanno imposto, cioè quando muore un soldato si interrompono tutte le comunicazioni perché si vuole fare in modo che la famiglia lo sappia direttamente dai superiori e non che ci sia una fuga di notizie e quindi lo vengano a sapere dai media. E dall'altra è stato toccante il funerale con tutto il saluto dei commilitoni, le cariche di salve, dei cannoni appunto sparate per celebrare questi tre soldati. Ecco Francesco, adesso rientri in Italia, ti occuperai credo di esteri, lasciaci con un pensiero sull'America tornando in Italia o su New York. Quello che dico a tutti, un'esperienza newyorkese secondo me serve a chiunque. New York, mi raccontò uno dei ragazzi che incontrai per primo qui nel 2001 quando arrivai, è una palestra di vita, se riesci a sopravvivere qui sopravvivi in tutto il mondo. È anche però una città che bisogna saper gestire, perché è una città che in qualche modo rischia di rubarti un po' l'anima, un po' gli affetti, e quindi bisogna essere sempre molto presenti. Ho conosciuto molte persone in questi 10 anni che si sono perse a New York e poi se ne paga le conseguenze per tutto il resto della vita. Quindi una città sicuramente dalle mille opportunità, a me ha permesso di inventarmi un lavoro, ma è anche una città da saper trattare con profondo rispetto e soprattutto con una lucidità che ti permette di non eccedere e nelle tante tentazioni presenti in una metropoli come New York. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Missy Elliott ha annunciato l'uscita del suo 7° album, si chiamerà Block Party. La cantante è stata lontano dalle scene per 5 anni per ragioni di salute. Dunque dedichiamo a lei la canzone di Missy Elliott, One Minute Man. Boy, it's been a long time, a crazy long time, and I don't want no minute man, and that's real. Give it to me some more, break me up, show me what you got. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.